con Francesco Invernizzi, regista del documentario Matera, in uscita in sala il 21, 22 e 23 gennaio 2019. Francesco, ben trovato. Grazie e bentrovati a tutti gli ascoltatori. Ci racconti un po' questo progetto? Matera è un film romantico, definirei così. È un film che racconta la storia della città attraverso i racconti delle persone che hanno costruito quella città, che l'hanno costruita fisicamente, rimettendo a mano ai sassi, ampliando le strutture e riportando la nuova vita, e anche costruendole, portando avanti quella morale, quella fede, quei valori che sono propri di una società contadina antichissima e che oggi si riflette in una città moderna, molto legata alla sua tradizione, al suo passato, ed estremamente piacevole, accogliente e carica di valori. Com'era partito il progetto? Presente è partito strano, stranamente. È partito da una telefonata che mi arrivò un paio di anni fa da un ragazzo di Matera che aveva visto uno dei nostri film al cinema. Credo fosse Raffaello, si riferisse a quello. E mi chiamò dicendomi: "Ma tu conosci Matera? Perché non vieni? Mi piacerebbe fartela conoscere, si potrebbe fare un film su Matera. Mi direi tu cosa ne pensi?" Allora andai pochi giorni dopo e passammo un weekend insieme. Mi accompagnò per i sassi, mi fece da guida sostanzialmente. E lì allora iniziai a conoscere la città, a scoprirla. Naturalmente conoscevo Matera, come si può conoscere qualsiasi luogo importante del mondo. Se pensiamo al Taj Mahal, tutti sappiamo che cosa sia Machu Picchu, sappiamo che cosa sia la Grande Muraglia cinese, però probabilmente pochi di noi le hanno visitate, non sono andati. Ecco, Matera per me era così, era un luogo che sapevo che conformazione avesse, l'immagine di Matera e dei sassi l'avevo in mente, ma non conoscevo, non avevo mai passeggiato tra quei vicoli, tra quei vicinati, tra quelle scalinate. Allora ecco, con questo ragazzo Roberto, si chiamava, mi accompagnò e fecimo questo primo giro. Poi pensai però come posso raccontare io Matera? E allora rimase un progetto sul tavolo, mai nel cassetto, in cui mi domandavo insomma da qualche parte finirà, da qualche parte inizierò a seguire, a sviluppare questo progetto e quindi gli daremo corpo. Succede che qualche mese dopo mi chiama un altro amico, Vito Salinaro, che è giornalista di Avvenire, di Matera, conoscevo ancora un amico, oggi è stato coautore e coregista in realtà di questo film, il quale mi chiama e mi dice: "Ti devo parlare di un progetto, vediamoci per un caffè di qua", bene, ci vediamo per un caffè, e mi dice: "Dovremmo fare, o mi piacerebbe che facessimo o che facessi un film su Matera, perché tu la conosci". Ma ti dico: "Guarda, sì, qualche mese fa sono stato con questo ragazzo, eccetera, mi ha illustrato un po' la città, eccetera, ma dai, vieni giù che ti faccio conoscere un po' di gente, ti faccio vedere". Così tornai con Vito a Matera e lui mi fece conoscere le persone di Matera, dall'arcivescovo al sindaco, al panettiere, piuttosto che muratore, eccetera. E da lì allora sono stati loro racconti, racconti di queste persone che in qualche modo mi hanno raccontato la città di Matera. Quando sono tornato a casa avevo il film pronto, erano quei racconti da riportare un'altra volta con una macchina da presa davanti. Così chiesi a quelle persone se se la sentivano di raccontarmi nuovamente le loro storie, che naturalmente ho trovato tutta la loro disponibilità, e da lì la materia. Come hai pensato poi di strutturare tutto questo materiale che avevi raccolto? Che idea ti è venuta rispetto al pubblico? Ho pensato che il pubblico avesse, come dire, lo stesso privilegio, cioè avere la possibilità di entrare nelle case di queste persone, avesse la possibilità di conoscere per davvero le loro storie sentite dalla loro voce. Non volevo che fosse il film del milanese che va a Matera e racconta un territorio, una città, una cultura diversa dalla propria. Allora, ecco, la ricerca è stata in quali storie, in quale maniera possiamo raccontare Matera. Allora è stata una lunga giornata, sostanzialmente il nostro film è quello che parte la mattina dal lavoro dei panettieri, dei muratori, arriva al vescovo che in qualche modo si muove tra le strade della città e così via, per arrivare poi a coloro che l'hanno costruita. Che impressione hai ricavato da tutte queste storie che compongono una comunità? Beh, quello che mi ha ricavato è che è una comunità antica, una comunità orgogliosa e tenace, è sicuramente un popolo che ha sopportato con grande fatica, ma come dicevo prima, con grande orgoglio, dei momenti di straordinaria difficoltà, ma che da essi ha saputo trarre insegnamento e che ancora oggi porta dentro di sé quell'insegnamento. come monito di ciò che può essere un momento difficile nella vita, ma che in realtà con la buona volontà, con l'impegno, con l'amore, con la fede, poi porta a grandi risultati. Questo trasmette Matera. Una comunità inclusiva? Senza dubbio, senza dubbio. È un luogo accogliente, un luogo che accoglie braccia aperte, pertanto allarga le braccia a coloro che si espongono, a coloro che in qualche modo visitano la città e tende a includere, così come in realtà penso che storicamente sia stato da sempre crocevia di culture e che tiene questa capacità di accogliere il prossimo, coloro che arrivano alla città, dargli accoglienza, il viandante, no? Colui che vi transita per andare anche da un'altra parte, in qualche modo li trova, ha sempre trovato questo tipo di accoglienza, quindi lo è senz'altro. Come avete pensato a questa uscita di 3 giorni? Parte di un circuito ormai consolidato che è quello del cosiddetto cinema evento. È una finestra che le sale cinematografiche offrono contenuti di questo tipo, quindi contenuti che hanno un carattere culturale, che è ormai prassi da qualche anno che sia riservata alle serate del lunedì, martedì e mercoledì sera. L'abbiamo deciso lì perché è proprio, non è un film blockbuster, tanto per intenderci, quindi possa avere uno spazio superiore. È il posto giusto perché è nel luogo della cultura. Bene. E allora ricordiamo il documentario Matera di Francesco Invernizzi in uscita in sala dal 21 al 23 gennaio 2019. E Francesco, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie e grazie a tutti quanti. A presto.